posso quindi andare? Mi date l'ok? Perfetto. Bene, ciao a tutti e tutte, io vi rubo qualche minuto prima di cominciare l'incontro per dire che insomma oggi è il primo, comincia questa 3 giorni che da un po' di tempo stiamo diffondendo in giro, 3 giorni che appunto abbiamo chiamato una decorosa repressione e che di fatto consiste in una serie di incontri, 7 incontri che apparentemente parlano di temi tra loro molto diversi, ma tra i quali noi vogliamo provare a analizzare, individuare un possibile filo rosso che li collega. E abbiamo individuato intorno a questo binomio, quello del decoro e della repressione, la possibilità di leggere un nuovo vero e proprio modello di governo delle vite, di governo delle città, che si fonda appunto su questo criterio di legittimazione, su questo criterio di inclusione differenziata che è appunto la retorica, la narrazione intorno al decoro. E appunto alla distinzione tra cittadini per bene, cittadini per male, decorosi e indecorosi, da includere dentro processi di valorizzazione o da escludere dalla città, dai territori, dagli stadi, dalle piazze, da tutti quei luoghi di socialità che dovrebbero appartenere a tutti e tutte noi. Questo secondo noi appunto è ciò che collega, per dire, il DASPO degli stadi alle ordinanze contro la movida, che connette i dispositivi di governo delle migrazioni con i processi di gentrificazione dei quartieri, quelli che possono sembrare argomenti tra loro molto distanti, secondo noi rispondono alle stesse logiche dinamiche di governo delle vite e delle strade. E quello che noi vogliamo provare a fare è un po' questo, provare a connettere questi aspetti e tracciare delle mappature di conflitto e di analisi condivisibili in questo spazio che crediamo possa essere uno spazio aperto a tutti e tutte, che vorremmo essere uno spazio, che fosse uno spazio di confronto dove appunto esprimere ognuno liberamente le proprie idee, lasciando un po' a casa ogni delirio di purismo, di oggettività, quindi con la voglia un po' di confrontarsi dentro questo spazio che abbiamo voluto aprire con questi 3 giorni. Concludo dicendo che se questa è un po' l'attitudine con cui ci poniamo di fronte a questi 3 giorni che vanno da oggi a domenica, la sfida che poniamo a tutti e tutte è quella di seguire il più possibile tutti gli incontri e provare a individuare quali sono le connessioni insieme a noi, e appunto con questa attitudine vorremmo vivere i momenti da ora in avanti. Chiudo questa introduzione prima di passare all'incontro di oggi, che riguarda appunto il DASPO, dal DASPO urbano al DASPO degli stadi, alle forme di allontanamento e ai dispositivi repressivi che giocano questa carta, dicendo che intorno alla linea del decoro si strutturano appunto tanti poteri e intorno a tante questioni questa linea marca delle traccia delle demarcazioni forti. Sappiamo come nell'ultimo periodo, forti anche della campagna elettorale, ci sia un'emersione dalle fogne dei fascisti un po' in tutta Italia, e anche intorno a questo abbiamo visto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, come i media mainstream, come le istituzioni continuino a tracciare delle differenze tra un antifascismo decoroso da salotto, funzionale al fascismo, funzionale all'emersione delle destre, e un fascismo indecoroso che va quindi perseguito legalmente, che va attaccato e per il quale oggi diversi compagni e compagne stanno pagando un duro prezzo. E quindi mi sembrava opportuno cominciare questi 3 giorni dando la solidarietà ai compagni e alle compagne che da Piacenza a Torino fino a Palermo sono in questo momento dentro le carceri per aver risposto con un indecoroso antifascismo alla presenza di Casa Pound e Forza Nuova. Quindi addio e a tutti e tutte loro va la semplicità e solidarietà assoluta. Detto questo, provo a entrare un pochettino dentro il vivo della questione di oggi. Oggi parliamo in qualche modo di DASPO urbano, parliamo di uno strumento che pare nuovo se si guardano le pagine dei giornali. Pare che sul finire dell'anno passato, il 2017, si siano levate tantissime critiche anche nella società civile, nella cosiddetta società civile democratica, rispetto all'applicazione di questo nuovo dispositivo introdotto dal decreto Minniti a febbraio 2017. A Bologna in particolare, non so se ricordate, ma penso fosse novembre del 2017 quando sono stati dati i primi 10 decreti DASPO urbano a dei senzatetto che stavano nei pressi della stazione. Immediatamente si sono levate giustamente e legittimamente delle critiche, diciamo a sinistra, ma anche dentro il Partito Democratico, no? Quello che sembrava essere oggetto di discussione, che ci ha fatto un po' sorpreso, ma in fondo neanche tanto, è che la posizione critica nei confronti di questo provvedimento fosse di fatto il dispositivo è giusto, cioè non è sbagliato allontanare chi dà fastidio dai territori, questo è legittimo. È sbagliato il fatto che venga fatto contro dei senza tetto che non hanno occupato per dire una casa, ma che sono lì condannati alla miseria che il capitalismo ha prodotto e che per questo potremmo legittimamente far morire sotto quel portico, no? Quindi questa è stata la critica che si è un po' sviluppata, che ha portato a dire che il DASPO era una roba accettabile, ma che era meglio che si limitasse agli ultras, che era meglio che si limitasse ai piccoli spacciatori, alla microcriminalità, ai militanti, agli attivisti, no? Che non andasse a estendersi a tutta quanta la società. Noi un po' questa critica vorremmo metterla a critica, cioè provare a dire attenzione che questa roba offre poi spazio alle retoriche che dicono che appunto questo strumento va molto bene per allontanare le figure incompatibili, quelli che non si riescono ad adattare a questo tipo di società e che magari scelgono oppure diciamo che naturalmente non sono predisposti ad adattarsi a questa società, e questi è giusto che vengano allontanati. Secondo noi questo tipo di discorso è molto pericoloso. E sappiamo che per quanto quello che viene definito DASPO urbano, che non è un termine tecnico, è un termine per lo più giornalistico con cui si chiama uno dei provvedimenti introdotti a febbraio dal decreto Minniti e che prevede l'allontanamento da 6 mesi a 2 anni di soggetti tra virgolette indecorosi, non nasce da niente, nasce comunque da una storia e ha una continuità precisa con altri strumenti che non mancavano nella legge italiana prima del decreto Minniti, che vedrete che in questi 3 giorni sarà un pochettino analizzato il decreto Minniti, non come spartiacque ma come appunto una roba che si aspetta a tanti processi, si pone in continuità con delle dinamiche precedenti. Anche in questo caso non viene da niente il cosiddetto divieto di accesso allo spazio urbano, riprende, i giornalisti l'hanno capito subito, uno schema che già esisteva e che era quello che attaccava per dire migranti, ultra, sex workers, militanti, microcriminali appunto. C'era già una platea di daspati dentro le nostre società prima che Minniti introducesse il DASPO urbano, e il DASPO urbano riprende questa struttura. Noi abbiamo pensato che fosse interessante percorrere un po' a ritroso i provvedimenti che dagli stadi a appunto le piazze militanti antagoniste ad altri contesti come quello appunto che si vive sui confini siano stati oggetto di dinamiche di questo tipo. Ci viene naturale, quindi lascio parola ad Andrea, partire dal DASPO originale, quindi dal DASPO negli stadi, dalla sua storia e quella che è appunto una realtà come quella ultras che nella sua complessità ha messo a critica tale strumento senza che tante volte dentro gli ambienti militanti ci accorgessimo di cosa stava avvenendo dentro quegli stadi, dentro quelle mura. Quindi io concludo qua per non essere troppo lungo, che gli interventi sono tanti, e lascio parola ad Andrea. Pian piano avremo modo di vedere appunto un po' tutti gli esempi che ho brevemente annunciato, cioè quello che è successo per dire sulla frontiera di Como Chiasso a Ventimiglia, parlando con Davide, un compagno che ha ricevuto 2 fogli di via sul confine e ha vissuto insieme alle migranti i processi di allontanamento e di resistenza che si davano sui confini. Ci sono i compagni e le compagne dell'Associazione di Mutuo Soccorso di Bologna che spiegheranno anche brevemente in cosa consiste l'associazione e come si muovono, e proveranno un pochettino anche a tracciare, a mettere sul campo dei dati per la discussione rispetto all'attacco ai militanti e alle forme di organizzazione politica più antagonista. E infine Giso gli chiederemo di raccogliere un pochettino gli spunti e parlare un pochettino di DASPO urbano, di allontanamento sociale e di quello che un pochettino ho provato a introdurre adesso. Grazie a tutti e a tutte per essere venuti contro il freddo. Buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito. Che dire, insomma, ricollegandomi a quello che diceva Matteo, il DASPO ha una lunga storia alle spalle che arriva insomma dall'ambito sportivo, non a caso vuol dire proprio divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Viene introdotto in Italia nel 1989 in conseguenza alla strage delle Iselle, dove muoiono 40 juventini in Belgio, insomma, durante una partita di calcio tra Liverpool e Juventus, una finale di Coppa Campioni. Ecco, da quel momento in poi viene prima sperimentato in Inghilterra e subito dopo arriva anche in Italia, appunto nel 1989. Il DASPO in che consiste, insomma? Nel vietare l'accesso alla manifestazione sportiva appunto a chi era recidivo, a chi insomma avesse problemi con la legge o chi potenzialmente era un soggetto pericoloso per le questure o per il questore di riferimento. Ecco, è stato uno strumento che insomma ha attaccato frontalmente il fenomeno ultras e in linea di massima è stato il primo, è stato l'inizio appunto di un attacco che è stato frontale, che è avvenuto poi successivamente, se vogliamo a partire, anzi se vogliamo, proprio a partire dal 2007 con la morte dell'ispettore Raciti a Catania, e praticamente lo Stato con un attacco frontale da parte del fenomeno ultras inizia in qualche modo a contrattaccare, anche se sappiamo che poi l'ispettore Raciti non fu ucciso dagli ultras ma dalla polizia stessa, con una retromarcia sbagliata, insomma. Perciò, però a partire da quel momento veramente la repressione verso il fenomeno ultras diventa estrema, con appunto l'introduzione dei tornelli, i biglietti nominali e via dicendo, e tantissime altre forme di repressione che attaccheranno frontalmente il fenomeno, tra cui poi un DASPO che in principio nasce come un DASPO senza firma in un primo momento, cioè a partire dagli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Poi successivamente, a partire dal 2007, appunto, subentra la firma, dunque ogni qualvolta c'è una partita di calcio il DASPato deve andare in questura a firmare. Ecco, questi provvedimenti, noi sappiamo quanto le curve siano stati sempre laboratori di sperimentazione per quanto riguarda la repressione da parte dello Stato, perciò a partire dagli stadi hanno usato il DASPO per poi farlo debordare dagli stadi appunto e introdurlo nella società civile e attaccare tutti quei fenomeni che appunto, come diceva Matteo, vanno dalle manifestazioni sportive ai migranti e a tutte quelle insomma soggettività che si ritengono tra virgolette pericolose. Questa è stata la storia, diciamo, del DASPO in linea di massima, parte dal 1989 e arriva ai giorni nostri. Oggi, oltre al, appunto, come dicevo prima, ha debordato e oltre alla manifestazione sportiva, va sempre più ad attaccare tutte le componenti sociali che in qualche modo danno fastidio alle politiche istituzionali e ufficiali, se vogliamo. Perciò, insomma, detto questo, c'è poco da dire, questo è stato proprio una forma di controllo abbastanza totale e radicale su un fenomeno che conosciamo insomma abbastanza bene, perché oggi conta 50 anni, nasce nel 1968, la prima formazione, se vogliamo, è stata la Fossa dei Leoni di Milano, ed è insomma all'interno delle sottoculture la sottocultura più longeva a 50 anni oggi, e inoltre la sottocultura che al suo interno è più interclassista, intergenerazionale e anche internazionale, perché comunque comprende un po' tutte le realtà a livello mondiale. Tuttavia il fenomeno ultras ha anche le sue pecche, se vogliamo, che sono quelle di non aver preso mai una coscienza politica abbastanza solida, insomma, e ha agito sempre in termini impolitici, se vogliamo, cioè non abbracciando mai ideologicamente la politica, se non in piazze insomma che si sono schierate politicamente, però in qualche modo ha agito sempre impoliticamente, cioè non prendendo parte a una politica diretta ma facendo delle forme di politiche indirette. Ecco, detto questo passo la parola avanti e poi insomma ne faremo una discussione magari con le domande che farete. Bene, io cercherò dal canto mio di fare qualche collegamento tra quella che è stata la repressione del movimento migrante e del movimento solidale di questi ultimi anni, che poi avrà anche uno spazio specifico nei prossimi giorni, a quelli che poi sono stati gli ultimi provvedimenti in materia di sicurezza e di decoro urbano. Partirò un po' dalla mia esperienza personale, che è nata fondamentalmente in seno a due esperienze collettive di lotta alle frontiere, a Ventimiglia prima e a Como poi. Tra l'altro condiviso con alcuni dei presenti e delle presenti, e appunto limitandomi a connettere qualche tassello di storia e a fare alcune considerazioni su quelle che poi sono state le evoluzioni in termini un po' di intervento repressivo su questo genere di movimento. Ventimiglia, la richiamo brevemente, stiamo parlando soprattutto di quello che è nato a partire dall'estate del 2015, quindi con l'intensificazione del movimento dei migranti, la chiusura del confine italo-francese, il conseguente respingimento di un numero consistente di migranti in frontiera, un gruppo dei quali aveva deciso di avviare una protesta sulla spiaggia dei Balsi Rossi, al quale successivamente si erano uniti dei solidali, dando avvio a un campeggio autogestito di lotta per affermare fondamentalmente la libertà di movimento, mentre in parallelo in stazione a Ventimiglia continuavano ad arrivare altre persone, altri migranti, che venivano fermati, e cosa che poi ha portato anche all'apertura in parallelo di un centro istituzionale a gestione Croce Rossa. Già lì si è assistito innanzitutto all'avvento in modo eclatante dei controlli, in questo caso a base razziale, nelle stazioni, quindi fondamentalmente venivano fermate le persone trovate in stazione o sui treni, che avevano sembianze, diciamo, non conformi o pelle scura, quindi su base di criteri unicamente di questo genere venivano fermati, e poi fondamentalmente spesso prelevati dalla prima stazione oltre confine, che è quella di Mentongaravan, poi da lì tradotti nelle postazioni frontaliere sul confine e riammessi in Italia. Io faccio parte un po' del gruppo dei primi colpiti da fogli di via su Ventimiglia, sembra che fosse il 10 di agosto, sostanzialmente a causa di una mobilitazione che aveva cercato di impedire queste procedure di riammissione dei migranti in Italia, quindi fondamentalmente cercando di impedire il transito delle camionette su cui i migranti venivano caricati e poi riportati in stazione, dove venivano lasciati nuovamente lì nei pressi del centro della Croce Rossa. Questo ha portato appunto all'emanazione dei primi fogli di via, che inizialmente riguardavano solo il comune di Ventimiglia, poi successivamente hanno iniziato a riguardare anche tutti i comuni della costa limitrofa, fino ad arrivare, mi sembra, una quindicina di comuni totali, anche in virtù del fatto che poi, diciamo, come movimento solidale ci si era cercato un po' di riassestare, cercando anche di collocarsi in zone non immediatamente a ridosso del confine. Appunto, in questo caso, almeno per me e per diverse altre persone, per quanto concerne il foglio di via, poi si era proceduto per vie legali sostanzialmente, quindi rispettandolo, ma non solo, e facendo ricorso al TAR, cosa che aveva portato nella maggior parte dei casi a una sospensiva prima e un accoglimento del ricorso dopo, con la condanna della parte soccombente, cioè lo Stato, al pagamento delle spese processuali, però col fatto che nel frattempo, insomma, questi provvedimenti avevano colpito in modo molto forte quello che era stata la sinergia che si era data tra le rivendicazioni dei migranti e delle migranti e l'appoggio dato dai solidali. Per quanto riguarda Como, anche lì parliamo di stazioni, con modo su cui poi porterò l'attenzione, nel senso che l'estate successiva, quindi 2016, si era riprodotta una situazione molto simile, nel senso che era aumentato il numero di migranti che cercava di raggiungere la Germania e il nord Europa attraversando la Svizzera, quindi passando la frontiera di Como e Pontechiasso. La Svizzera ha risposto chiudendo le frontiere, quindi si era creata una sorta di ingorgo che ha portato poi a un numero variabile tra 200 e 500 persone ad accamparsi nel piazzale davanti alla stazione di Como San Giovanni. In questo caso le istituzioni avevano lasciato, diciamo, gran parte del lavoro in mano agli enti del volontariato cittadino, fino a quando poi, diciamo, sul finire dell'estate il campo era stato sgomberato e cooptando anche parte di questi servizi di volontariato, i migranti erano stati trasferiti all'interno di un centro prefettizio, sempre gestito dalla Croce Rossa e tuttora in funzione. Da parte solidale anche lì si era provato, diciamo, a far esplodere fondamentalmente la dimensione politica della questione, con una presenza anche, diciamo, continuativa in stazione, con un'attività di monitoraggio costante di quello che accadeva ai confini, dove anche lì, insomma, si effettuavano dei controlli giornalieri su stazioni, treni e limitrofi. C'erano stati anche lì un numero consistente di fogli di via, in questo caso una ventina, mentre su Ventimiglia mi sembra che si fosse arrivati a 60, poi non so perché ho preso il conto. E, tra l'altro per fatti volendo più di lieve entità, nel senso prima di tutto il tentativo di cucinare e distribuire il cibo direttamente in stazione, quindi cercando di raggiungere, diciamo, il livello di autonomia da questo punto di vista da parte di chi c'era costretto ad abitarci, e poi per aver manifestato contro la Rampinini, che era la ditta che in quel caso provvedeva per conto della prefettura al trasferimento poi coatto di migranti a Taranto, manifestazione che poi era sfociata anche in un'occupazione breve della carreggiata, e diciamo questo intralcio alla circolazione poi era stato tra le motivazioni che erano state addotte ai fogli di via che erano stati dati. Messo un po' l'accento su questi punti, tra l'altro sul cibo era interessante constatare che anche su Ventimiglia c'era stata la famosa ordinanza del sindaco, che percorreva per certi versi anche le ordinanze che stiamo assistendo adesso, che impediva la distribuzione non autorizzata di cibo ai migranti, che aveva anche multato delle associazioni caritatevoli che hanno cercato di farlo. Mettevo l'accento su questi punti, nel senso che mi sembrava interessante vedere anche un po' come il decreto sicurezza di Minniti vada proprio a intervenire sulla questione della circolazione, no? Cercando un po' di disciplinare nel modo più fermo possibile quello che è il movimento, quindi fondamentalmente colpendo con un divieto di accesso delle persone che esplicitamente nel dispositivo di legge impediscono il libero accesso e la libera fruizione di certi luoghi, in particolare luoghi di movimento, di infrastrutture, quali stazioni e vari, più un'altra serie appunto di altri posti per certi versi strategici o comunque di spazi pubblici. E diciamo che qua emerge anche in modo forte, diciamo, la stretura classista, se vogliamo definirla tale, del provvedimento, proprio nel vedere a chi viene negato l'accesso e invece chi in qualche modo si veda ostacolato o impedito nell'accedere a determinati spazi. Era interessante la questione delle stazioni, nel senso che lì poi erano partiti, diciamo, avevano accelerato i processi di fortificazione delle stazioni che già erano in corso, tra l'altro li ha descritti bene Wolf in un articolo uscito un po' di tempo fa, nel senso che appunto quello che poi era stato l'installazione dei gate alla stazione centrale di Milano, se ne era parlato anche qua a Bologna, per esempio su Como si era dato il fatto che storicamente era una delle stazioni più frequentate da senza tetto, perché era una delle poche che restava aperta di notte e che aveva i servizi a accesso libero, e con la questione migrante è stato prima decretato la chiusura notturna e poi è stato inserito diciamo, il pagamento all'accesso, similmente anche sempre nella zona a cui faccio riferimento, a Monza poco fa sono state proprio murate delle aree delle stazioni perché erano impropriamente usate da parte di certe tipologie di persone per bivaccare, semplicemente avviando quella che poi è stata pomposamente definita Operazione Scorpione, che però fa parte un po' di quelle operazioni di polizia che partono spesso su ordinanze comunali che fanno riferimento al decreto sicurezza Minniti, che in questo momento vediamo in azione e che su Como si erano date anche poi in un secondo tempo con la famosa ordinanza del sindaco Landriscina, che sotto Natale, diciamo, per permettere la libertà di shopping natalizio per i cittadini abbienti, aveva decretato il divieto di accattonaggio all'interno della città murata e quello che poi ne era conseguito in termini di allontanamento degli indesiderati e anche di frapposizione con quelle che invece sono poi le associazioni caritatevoli cittadine che sempre hanno svolto attività della serie di distribuzioni, colazioni, così, cosa che ha fatto abbastanza notizia. Appunto questo giusto per dare un'idea di continuità tra tutto quello che è successo. Mi sembrava importante anche constatare il fatto che poi, almeno per quanto mi riguarda, su Como si era cercato di procedere in modo diverso rispetto alla risposta, diciamo, ai provvedimenti repressivi emanati, nel senso che non si era ricorso al TAR, non si erano rispettati, usando un po' il ricorso gerarchico al prefetto come tentativo intermedio che poi potesse giustificare in fase di processo penale che avveniva nel momento in cui questo provvedimento si violava, potessero cercare di giustificare l'illegittimità del provvedimento stesso, no? Si era cercato un po' di fare in questo modo. In realtà il decreto sicurezza Minniti retragisce su questo genere di questioni, nel senso che va anche a modificare quello che erano le tre categorie storiche a cui venivano assegnati i fogli di via, no? Quindi, giusto per ricordarli, sembra chi è abitualmente dedito a traffici delittuosi, chi ricava proventi almeno in parte da traffici delittuosi, e poi l'ultima casellina, diciamo quella C, che è quella di solito che veniva contestata agli imputati politici, era quella fondamentalmente di arrecare disturbo a questioni inerenti a sanità, tranquillità pubblica. In questo caso è stato modificato nel seguente modo, tra l'altro con delle formule verbali abbastanza arzigogolate. Comunque, sostanzialmente, i provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di quell'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica. Quindi fondamentalmente viene inserita la violazione del foglio di via come le motivazioni che giustificano l'assegnazione del foglio di via stesso, no? Quindi è un po' un procedimento tortuoso con cui fondamentalmente si rende valido anche un foglio di via illegittimo nel momento in cui tu quel foglio di via non lo rispetti. E questa era, insomma, l'ultima cosa che aveva un po' catturato la nostra attenzione e che faceva sorgere anche le domande per cui stiamo cercando di confrontarci in questi giorni. Grazie. Ciao a tutti e a tutti, vabbè, meno male che siete qua nonostante il freddo, io la faccio brevissima in realtà, volevo spendere due parole semplicemente per presentare questa fantomatica associazione di mutuo soccorso per il diritto di espressione. Siamo un'associazione che è nata nel 2006, quindi ormai abbiamo 12 anni, io in realtà sono una delle nuove venute, quindi forse non sarei la persona più adatta per fare questa introduzione, ma mi è stata pioppata, è un accollo, lo faccio. Che dire, è nata un po' sulla spinta di alcune persone che venivano, diciamo così, dal 2001, dal giro no global, dal 2003, avevano subito delle forti depressioni e si sono ritrovate fondamentalmente a scontrarsi con l'ingranaggio della giustizia da ormai, diciamo così, cani sciolti e cani solte. E quindi se hanno, insomma, gli mancavano quelle strutture che spesso invece hanno i collettivi o anche i partiti che potessero dare una mano e sostenere comunque quella che è una lunga lotta, perché comunque la repressione agisce in maniera lunga e molto spesso dispendiosa, sia di energie sia in termini di denaro. Quindi l'associazione si è costituita, insomma, un po' su base territoriale, un po' per sopperire a insomma, questa mancanza. Mancanza forse è un termine un po' grosso, di altre strutture che potessero dare una mano, essere solidali e portare avanti comunque delle cause giuste e analizzare in maniera, diciamo così, insomma, difendere comunque tutta una serie di reati sociali che purtroppo in realtà, con cui purtroppo in realtà veniamo troppo spesso indagate e indagati. Che dire? Una delle parole fondanti dell'associazione è anche l'autoformazione, oltre all'associazione, e infatti per l'autoformazione abbiamo scritto un primo manualetto nel 2012 che si chiama Difesa Legale e che adesso verrà ristampato nella seconda edizione, che vede l'intervento anche di altre associazioni, tra cui Supporto Legale, i Notav, c'è una parte tutta tecnologica che è stata scritta in collaborazione con ACLAB o ELAC Meeting, quindi insomma ci dà degli strumenti per leggere, ci dà degli strumenti per leggere la realtà e soprattutto ci dà degli strumenti per poterci sempre difendere meglio e capire cosa ci sta succedendo senza farci prendere dal panico. E infatti il titolo del futuro manualetto è Stop al panico. Che altro di associazione è? Un'associazione che ha contato più di 100 iscritti, ha seguito una novantina di processi sul territorio bolognese, perché si sviluppa appunto sul territorio bolognese e provincia, non so, qua c'è con noi un altro nostro associato, nonché l'avvocato, uno degli avvocati delle avvocatesse dell'associazione. Io lascerei la parola a lui a questo punto. Grazie, sono Antonio, sono uno degli avvocati a cui fa riferimento l'associazione di mutuo soccorso, perché ovviamente un'associazione del genere ha bisogno anche dell'apporto di saperi tecnici. Quindi la seconda edizione di Stop al Panico sarà disponibile, direi, a brevissimo, quindi fra un mesetto si spera che saremo in grado di darlo alle stampe. E quindi una seconda edizione riveduta, aggiornata, per chi ha visto la prima, insomma, vale la pena di dare un'occhiata anche alla seconda edizione. Ovviamente come associazione ci siamo da tempo, diciamo così, applicati su queste questioni che stiamo discutendo oggi, quindi sostanzialmente, oltre che ovviamente seguire i processi penali, la difesa penale, abbiamo seguito anche cosa? Lo sviluppo in questi anni, e quindi parliamo secondo me di 10-15 anni in questa parte, lo sviluppo, oltre che lo strumento penale per reprimere l'attività politico-sociale, lo sviluppo dello strumento amministrativo. Allora, lo strumento amministrativo è sicuramente più snello, perché quelle di cui abbiamo parlato finora sono misure di polizia sostanzialmente, no? E quindi vengono adottate da un questore, da un prefetto, quindi con un foglio si ottiene già un risultato immediato. Sono più snelli, sono più veloci e per un certo punto sono, per un certo qual modo sono anche più efficaci di un processo penale. Perché? Perché il processo penale deve sottostare a una procedura che è abbastanza rigida, e comunque un processo penale ha dei tempi più o meno lunghi. Infatti la nostra associazione è trasversale, cioè non è né una croce nera anarchica né una croce rossa comunista, cioè faccia riferimento alla Rote Hilfe, che è un'associazione tedesca, quindi è trasversale perché è pensata appunto per i cani sciocchi, proprio perché c'è questo discorso della sincronia. Te commetti un reato oggi, magari fai parte del tuo collettivo, del tuo gruppo o di quel che sia, e il processo però si farà fra anni, quindi il tuo collettivo magari non c'è più. Quindi la nostra associazione è pensata, diciamo così, per questo, per i cani e le cagne sciolte. Sui fogli di via, sì, fogli di via appunto è uno di questi, le misure di prevenzione, sostanzialmente le possiamo enucleare, ci sono i fogli di via, l'avviso orale, che una volta sì, si usava, ma si usa ancora oggi, l'avviso orale è molto semplice, è un foglio in cui il questore, il prefetto dice: guarda, non ti comporti tanto bene, vedi di comportarti meglio, perché se no altrimenti è appunto la questione del foglio di via. Foglio di via, anche questo atto poliziesco amministrativo con cui si viene rimpatriati, diciamo, quindi c'è l'ordine di recarsi al comune di residenza e di non frequentare più il comune o i comuni da cui si viene, diciamo così, allontanato. È una misura amministrativa, infatti il compagno prima diceva che ha fatto ricorso al TAR del Tribunale Amministrativo Regionale, e per fare ricorso si paga un bollo discretamente alto, perché se non ricordo male è sui 500-600 euro. Quindi voglio dire, sono misure che hanno un effetto immediato, perché tu devi andare via subito perché sennò commetti reato, e poi andarle a impugnare, bisogna avere anche una discreta organizzazione. Dopo il foglio di via c'è la sorveglianza speciale, che è la più grave delle misure di prevenzione, quindi sempre amministrative, però questa è stata giurisdizionalizzata, vuol dire che non è un prefetto, un questore o quant'altro, ma è un tribunale che te la applica, nello specifico un tribunale collegiale, quindi ci sono tre giudici, si fa un'udienza, vieni proposto dalla polizia per la sorveglianza speciale. Cos'è la sorveglianza speciale? Sorveglianza speciale vuol dire che te hai delle determinate prescrizioni abbastanza stringenti sulla libertà personale: non uscire da quell'ora a quell'ora, non frequentare determinate persone, non frequentare determinati luoghi e robe del genere. ci può essere la sorveglianza speciale con l'obbligo di dimora o con il divieto di dimora, ma sempre sorveglianza speciale, quindi diciamo così, aggiunge una prescrizione in più che devi stare in quel posto oppure non puoi andare in quel determinato posto. E questa ovviamente è la, diciamo così, la misura più afflittiva, che limita molto la libertà personale. Quindi questo è l'uso, l'uso di queste misure è stato nel tempo, negli anni, sempre più sponsorizzato, sempre più usato, a nostro avviso, perché sono efficaci sostanzialmente. Quindi il discorso del DASPO, anche quello viene da lontano, perché appunto, come si diceva, il DASPO, ora detto urbano, è parente prossimo, figlio di quello che era usato negli stadi fino a poco tempo fa. Il decreto Minniti prevede tutta una serie di cosine, di cui prima si è fatto accenno. Per il discorso della sicurezza urbana, intanto viene ampliato, ne faccio così una cosa velocissima, una panoramica velocissima, viene ampliato anche il potere, diciamo così, della polizia municipale, che si raccorda assieme a tutte le altre polizie. Poi c'è il discorso sull'incoraggiamento alla costituzione di reti territoriali di volontari, quindi mi vengono in mente tutto un discorso di ronde o comunque cittadini che si danno da fare per sorvegliare oltremodo. C'è tutto il discorso sulla videosorveglianza, e quindi in pratica vengono previste delle detrazioni IMU e TASI, no? Quindi detrazioni fiscali per coloro che installano impianti di videosorveglianza, quindi qui parliamo di privati, quindi condomini o roba del genere, quindi diciamo che c'è un incentivo a queste misure. Vabbè, maggiore potere ai sindaci e le ordinanze, questa non è una cosa nuova, perché c'era già stata tempo addietro con le ordinanze dei sindaci sceriffi, no? Che poi insomma la Corte Costituzionale diceva che il potere andava comunque limitato, quindi non andò molto a buon fine. C'è il cosiddetto DASPO per droga, nel senso che non dimentichiamoci che anche poi fra i soggetti colpiti ci sono, diciamo così, fruitori di sostanze, no? Oltre che gli spacciatori, perché poi i provvedimenti fanno riferimento allo spaccio, ma anche ai fruitori, agli utilizzatori. Poi ci sono sempre nel decreto Minniti dei provvedimenti abbastanza, diciamo così, preoccupanti, nel senso che ci sono una previsione di limite alla condizionale in alcuni processi, nel senso che ognuno di noi ha sospensione condizionale della pena, o comunque dovrebbe averla se è incensurato, e il decreto Minniti ha previsto una limitazione appunto di questo beneficio per tutta una serie di processi, soprattutto quando c'è di mezzo danneggiamenti di spazi pubblici, quindi spray, bombolettamenti, writing e roba del genere. La sospensione condizionale viene si può usufruire se te ripari il danno che hai fatto, o comunque meccanismi, vengono previsti meccanismi del genere. C'è il discorso sempre nel decreto Minniti parliamo, il discorso dell'arresto in flagranza differita, che non è una cosa nuova, ma che c'è da anni, però è sempre stato, è sempre stata una previsione temporanea, nel senso che si diceva arresto in flagranza differita, 48 ore, in base ai video che si guardano, eccetera, eccetera, però scade il 2017. Ecco, adesso col decreto Minniti viene prorogato, perché stava scadendo, e viene prorogato fino a giugno 2020, quindi c'è questa proroga ulteriore. Sì, c'è il discorso sui parcheggiatori abusivi e quant'altro, però direi che questa è un po' una panoramica su questo decreto Minniti che io vi volevo dare. Per ora direi che posso fermarti. Thank you. Sì, paradossalmente uno potrebbe cominciare dicendo che il decreto Minniti dell'aprile è una buona legge, nel senso che se la vedete fa abbastanza impressione, nel senso che non è innovativa ma raccoglie tutte le tutto quello che già c'era in un progetto abbastanza dichiarato, se vedete come è strutturata, e che segna, non direi un salto di qualità, perché sta in profonda continuità con le cose che erano accadute, sperimentate in quei laboratori della repressione sono gli stati, e però è un decreto piuttosto sistematico. Credo che Minniti ci legga, nel senso che tutta la migliore letteratura critica sul decoro è tutta citata, nel senso che tutte queste parole, il decoro urbano, la vita decorosa, eccetera, eccetera, le trovate tutte nel decreto Minniti. Entrano, fanno il loro debutto ufficiale nei requisiti, nei parametri che dovrebbero giustificare, che sono posti a giustificare queste misure. Ed entrano parole di una certa importanza, di una certa, anche queste che hanno una storia, ma che là vengono formalizzate, tra cui una che domina in tutta la legge e che è, per tutto il decreto per la legge, e che è la sicurezza integrata. La sicurezza integrata significa che il linguaggio che noi abbiamo chiamato governamentale, della governance, chiamatelo come volete voi, cioè quella idea per cui non abbiamo più di fronte un decisore, un centro di potere, un dispositivo da cui vengono fuori tutti gli altri, ma una rete di centri di competenze, di decisioni dall'alto e dal basso che vengono continuamente contrattate, a volte con momenti di decisione d'emergenza, altre volte con caratteristiche invece pattizie, ecco, tutto questo viene portato dentro la legge che dichiara che la sicurezza è materia di governamentalità, è materia di governance, è materia che attraversa più centri ed è materia di patti. Questa cosa, vedete, sembra... Se uno vi dice la sicurezza non è più affidata a un decisore unico, ma è pattizia, sembra una cosa tranquillizzante in qualche modo. È un'eredità degli anni 90, dove, quasi poi siamo a Bologna, che è un po' stato il luogo più alto di quella sperimentazione, che coinvolgeva anche persone molto per bene avanzate, che poi si sono pentite di quella sperimentazione. I patti per la grande stagione, i patti per la sicurezza. La grande stagione per i patti della sicurezza, diceva, metteva giù un'idea che la sicurezza fosse sempre contrattata dall'alto e dal basso, che la sicurezza fosse un tavolo in cui le competenze sono plurime, in cui non c'è una gerarchia di competenze di intervento, in cui vengono mobilitati dal basso continuamente i quartieri, anche le associazioni vengono di volta in volta cooptate, le associazioni di volontariato, perché la sicurezza è una faccenda complessa che deve essere gestita a più voci. Ora, voi capite che adesso questa accoppiata tra ideologia del decoro, ideologia non è il termine preciso, perché insomma è un dispositivo materiale, e sicurezza contrattata, integrata, indica una strada, cioè un continuo coinvolgimento nelle decisioni di più autorità che non sono poste in un ordine gerarchico, un continuo tentativo di coinvolgimento dal basso, dove il dispositivo del decoro fa il suo porco servizio. A Roma noi conosciamo bene, qua non so come siete messi, ma noi conosciamo bene qual è stata l'importanza di movimenti come i Retake, il sito di Roma fa schifo, per determinare questa mobilitazione costante, anche dal basso, nel senso, dal basso prendete un po' con ironia, sono buoni borghesi, insomma, ma che attivano, sono continuamente attivati in una sicurezza, in una gestione della sicurezza che non è più, quella gestione emergenziale d'ordine pubblico a cui siamo abituati, ma che continuamente cerca di coinvolgere anche i buoni sentimenti della società civile, la buona mobilitazione del quartiere, l'associazione di volontariato in una continua attività di cooptazione. Allora, se uno prende la legge, il decreto, la legge Minniti, come un canovaccio, ci può essere utile a capire delle trasformazioni, perché non è, anche nella sicurezza non è vero che è sempre la stessa cosa. Le innovazioni, loro le spacciano per innovazioni, ma le innovazioni ci sono poi davvero, è un campo in cui si innova per davvero. Uno, direi, non c'è ma più, e questo riguarda soprattutto i reati politici, l'attenzione per i reati politici in realtà sparisce. Non c'è in realtà una vera e propria fissazione emergenziale contro i movimenti sociali, eccetera. Non c'è nessuna retorica della sicurezza intesa come legge d'emergenza, tutto questo sparisce. L'altro giorno Minniti diceva che lui, che negli anni 70 l'Italia aveva sconfitto il terrorismo senza ricorrere alle leggi d'emergenza. Questa è una puttanata per allora, ma ti dice la verità su quello che devono fare. Loro non hanno più nessuna intenzione di ricorrere, non ce ne hanno bisogno, non è quella la loro logica, di ricorrere a strumenti evidentemente emergenziali. Il mix a cui ricorrono invece è l'amministrativizzazione, un'amministrativizzazione che, vedete, si discosta sempre di più anche dalla logica delle misure di sicurezza. Qui non si tratta di andare a vedere se qualcuno ha compiuto o no un determinato reato, sono tutte esplicitamente misure di prevenzione, in cui conta sempre di meno quello che tu hai fatto e conta sempre di più invece, e questo è il secondo momento di accelerazione, di novità, la prevedibilità di quello che farai. Quella categoria della pericolosità sociale che era riservata alle misure di sicurezza, cioè era quella che ti spediva in manicomio, oggi si allarga alle misure di prevenzione in generale, diventa un po' un dispositivo generale per governare, come si diceva prima, non più se il tuo destino era quello del carcere o del manicomio, ma semplicemente per governare la mobilità urbana. Tutto diventa proprio un modello di esercizio quotidiano dei dispositivi amministrativi, la pericolosità. La pericolosità ovviamente viene calcolata con la creazione continua di figure, di profili, profilature, direi in un mix un po' tipicamente postmoderno, dove l'ombroso si incontra con l'algoritmo in qualche modo, dove le classi pericolose diventano però una specie di fattore di rischio. Il tutto sostenuto però dal dispositivo del decoro, della decorosità, che è quello che deve mobilitare le riserve dal basso per far funzionare questo sistema. Quindi nessuna eccezione, ma molta emergenza e molta pluralità di sistemi. Sempre più amministrativizzazione, fino ad abbandonare, tu facevi un passaggio interessante, fino a cominciare ad abbandonare anche il sistema classico, che era quello, prima misura di prevenzione, poi dopo, quando violi la misura di prevenzione, c'è il processo penale, col cavolo, questa è una roba retro. Quello che si comincia a vedere è che se c'è, tu violi la misura di prevenzione, c'è la misura di prevenzione. E se violi la misura di prevenzione, c'è la misura di prevenzione. Perché? Perché qui non si tratta di poi ovviamente c'è anche previsioni più pesanti di aggravamento di misure per le recidive, eccetera, eccetera. Però a loro non interessa tanto questo. Qui non si tratta di escludere definitivamente nessuno. Qui si tratta di controllare continuamente la mobilità, che è il vero tema al centro di quella questione. Quindi nessuna emergenza, grande piega preventiva, grande minority report style, diciamo, di tutta questa baracca, e terzo, che è la cosa un po' più modernizzante con cui dobbiamo fare i conti e che viene certificata dalla legge Minniti, questo andamento governamentale, manageriale, contrattato, nel senso appunto di cercare continuamente la cooptazione e il coinvolgimento di più soggetti delle politiche della sicurezza. E quando la legge Minniti apre con la sicurezza integrata, mette per iscritto tutta una tradizione di security management che dovrebbe farci capire qualcosa. E cioè dovrebbe farci capire che queste politiche di sicurezza devono essere sempre lette insieme alla trasformazione neoliberale delle città. Vanno insieme. Non è possibile fare astrazione da quello che sta succedendo sulla pianificazione delle città. Il fatto che non esista più un'idea di piano, il fatto che qualsiasi politica urbanistica oggi è contrattata, tra l'altro nell'Emilia Romagna avete un progetto di legge regionale molto avanzato da questo punto, da questo punto di vista, nel senso che proprio dichiara che ogni programmazione metropolitana è finita e che l'urbanistica è pienamente a fare della contrattazione con gli interessi privati. Bene, quel tipo di città neoliberale ha bisogno continuo di spostare gli indecorosi, di spostare i fastidi, non perché siano animati da una logica repressiva, ma perché sono animati da una logica di valorizzazione finanziaria degli investimenti, dei flussi e degli investimenti privati della città. Questo lo dobbiamo tenere presente. Governamentalità dell'intervento significa anche che che cosa fa il sindaco, fa le ordinanze, cosa fa, poi però siccome sono provvedimenti amministrativi il competente è il questore, però poi siccome toccano la libertà individuale occorre un passaggio giurisdizionale e si fa una danza delle competenze. Questa danza delle competenze la conosce benissimo chi per esempio lavora sulla strada, che ha sempre davanti insomma, un ambulante che lavora, non sa mai se oggi gli toccherà lo sgombro del questore, quello del sindaco, che cosa ha pensato il prefetto. Tutta questa cosa non è casuale. Non è che non si trovano nella piramide delle competenze, proprio che attualmente la governance della sicurezza funziona così, su un piano di continua contrattazione dove non è facile individuare di volta in volta chi ha il pallino, ma dove poi tutta questa rete precipita di volta in volta in interventi emergenziali. A un certo punto poi qualcuno interviene sulla strada a sgomberare l'ambulante, qualcuno decide che quello è il momento della crociata per questo o per quell'altra figura. A proposito, i parcheggiatori abusivi sì, erano perseguiti pure prima, però salutiamo con interesse il fatto che una legge dello Stato, un decreto, abbia prodotto questo debutto ufficiale del parcheggiatore abusivo dentro la nostra legislazione, con il suo capo. Questo vi fa capire parcheggiatore abusivo ovviamente non è uno dei problemi della governanza della sicurezza di città, però è uno dei grandi, delle grandi modalità di cooptazione del consenso dal basso nelle, nelle opere di sicurezza, no? È una delle grandi figure che serve per ottenere il consenso della, della, della popolazione civile. E allora, se questo, se questo è il quadro, quello, quello che noi dobbiamo sempre tenere presente è A, che contro politiche della repressione, certo, sono politiche di difesa giuridica, questo, questo è sempre necessario, anche se come vedete, siccome sono sempre più amministrative e puntuali, sono sempre più difficili le difese giuridiche, semplicemente perché intervengono post factum, a questi no, non gli interessa tanto condannarti a vita, gli interessa per esempio sui reati di solidarietà, questo è evidente, gli interessa intervenire Ventimiglia style per smantellare un'infrastruttura della solidarietà che si è creata in quel momento. Gli interessa utilizzare quello, quello, quello strumento per impedire che si creino attraverso un rapporto tra migranti e solidali quelli che potremmo chiamare dei, dei nodi della riproduzione sociale. Gli interessa quella cosa lì, gli interessa che non si creino delle alleanze che siano produttive di luoghi più o meno permanenti in questa mobilità continua, continuamente da gestire. Allora, se questo è, quindi controllo sulla mobilità, controllo sui luoghi della riproduzione, è chiaro che le lotte contro la repressione devono porsi, devono sapere che non hanno davanti a sé il nemico repressivo, che forse anche la parola repressione la usiamo tra di noi, ma ci porta sulla strada sbagliata in qualche modo. Foucault continua ad aver ragione, questa non è una politica repressiva, è una politica produttiva di flussi, di controlli, di interessi, eccetera. O almeno non è solo una politica repressiva. È difficile, dicevo, organizzarla solo dal punto di vista, dal punto di vista giudiziario, dobbiamo fare igiene mentale, non abbiamo il nemico della repressione ma abbiamo una rete, questa rete ovviamente ha, come tutte le reti, ha una possibilità di buchi. Non dobbiamo immaginare che questi stanno costruendo un Moloch repressivo senza smagliature, non tanto perché sono buoni e lasciano le smagliature, ma perché loro hanno bisogno di conservare quella stessa mobilità che loro devono controllare. Non possono bloccare la città, loro devono contemporaneamente, continuamente ripulirle e non essere troppo invasivi. Devono avere il centro storico accessibile ai consumi, ma il centro storico, queste cose, tutti gli studi governamentali ce l'hanno detto, ma se il centro storico, cioè, se il centro storico poi diventa continuamente l'oggetto di interventi di polizia, quella cosa lì non è gradita a chi vuole il centro storico. Bisogna espellere la popolazione, e questo lo sapete benissimo, bisogna controllare i movimenti della popolazione studentesca, ma non si può rompere troppo le scatole alla popolazione studentesca, perché poi la città ha su quella mobilità un suo punto di valorizzazione. Quindi non abbiamo un Moloch repressivo, ma abbiamo una rete a punti dove le politiche antirepressive si coniugano con l'organizzazione del comune, direi, mutualistica, sindacale, meticciata. Sono quelli gli esperimenti. Non so, noi stiamo molto lavorando con i sindacati meticci e alcune volte migranti, soltanto migranti, degli ambulanti, dei lavoratori ambulanti, e lì vedi che la strategia di creare punti di incontro meticci, ma insieme anche momenti di produzione che cosa vendiamo, gli ambulanti si pongono il problema di ma che cosa vendiamo, come ci associamo, come è possibile rafforzarci anche dal punto di vista produttivo, sempre tenendo presente che queste forme di vita hanno da scansare continuamente le forme della governance. Però soltanto una strategia di questo tipo è all'altezza di queste strategie repressive contemporanee, solo quelle che gli continua a creare la loro paura, quella che si vede nei reati di solidarietà contro i migranti, cioè che questa mobilità non tanto sia bloccata, ma che dentro la mobilità nascano delle permanenze, ecco, prima dicevo le infrastrutture della riproduzione, delle permanenze mutualistiche, associative e politicamente motivate. Questo forse è all'altezza delle trasformazioni repressive. Immaginare invece che abbiamo uno stato di polizia vecchio stile ci porta un po' fuori strada. L'esercizio mentale da fare è sempre questo: il decoro, gli apparati repressivi, l'amministrativizzazione non è mai sganciata dalla configurazione della città neoliberale e dalle vicende della proprietà, della rendita, delle vicende produttive. Dobbiamo sempre collegare questo con quello che sta succedendo nel campo della repressione. Per esempio, e chiudo, il movimento dei beni comuni spesso è stato attraversato da sentimenti, come dire, di decoro civico che lo hanno in qualche modo, anche bloccato. È sempre stato difficile creare alleanze tra le persone che si battono contro il saccheggio di certi spazi urbani e quelli che seguono le figure, il destino delle figure indecorose. Eppure da un collegamento del genere passerebbero molte cose. Se si riuscisse a riprendere il filo e a legare le tematiche del diritto alla città con le tematiche della lotta al decoro, all'ideologia del decoro, e allora forse potremmo fare dei passi avanti. E il movimento delle donne ci ha un po' insegnato come fare. Quando prendono la parola sicurezza e la rigiocano con le passeggiate, antisecuritarie. Quello è un modo per minare le politiche della sicurezza, però facendo una svisata rispetto al fronteggiamento diretto delle politiche della sicurezza e dicendo noi abbiamo un'idea di securitas che passa dal comune, dalla convivenza, dalla capacità di essere da un lato indecorose, ma dall'altro lato fare di questa indecorosità una forma di vita in comune. Questo è un insegnamento che dobbiamo tenere presente per non cadere, appunto, dicevo all'inizio, Foucault diceva che formulare l'ipotesi repressiva ci aveva portato fuori strada, lo diceva già negli anni 70. Davanti a queste forme di nuova repressione è ancora più urgente non rispondere come se avessimo le vecchie logiche della repressione di fronte a noi. Io avrei un paio di domande, ma lascio ovviamente spazio a tutte voi per domande, interventi, dubbi e quant'altro. Vai, una. Lei prima faceva riferimento a... Vogliamo farli qua? Sì. Scusa, fai lo sforzo di venire qua. Ti dispiace? Almeno allora parla forte. Alzati e parla forte. Lei prima faceva riferimento ai famosi sbirri di quartiere, i monnetti che stanno probabilmente la cosa che mi pungola un pochettino dentro è che la figura, perché investe varie strati dell'animo, diciamo, è che tuo nonno, da persona simbolo per te, per la tua esistenza, per una persona, per qualcuno, possa diventare colui che è professore di razzismo, quindi insegnando ci stanno mettendo uomo contro uomo in questa società di potere di vetrina bellina. Ma come potremmo fare? Come potremmo fare a cercare di essere meno vaghi sulla questione del dato, concretamente? Raccolgo domande. Esistono queste cose, sono strutturate in Italia, cioè a Venezia esiste un metodo che chiama... Come non è? La legge della codificazione. Una delle domande quindi riguarda le forme del controllo dal basso, no? Diciamo. Vabbè, io le altre due robe che volevo chiedere un pochettino in maniera particolare ad Andrea, raccogliendo un pochettino gli stimoli, ma un po' tutti quanti. Una riguarda appunto il fatto che non sia una politica repressiva molte volte, ma che sia una politica che lascia spazio alla valorizzazione in qualche modo, no? Che funzionale alla produttività. Vorrei provare a spostare questa roba, perché è anche un po' il focus di questa discussione, a ciò che è avvenuto, che avviene dentro gli stadi. E la domanda che mi pongo io e che pongo ad Andrea è quanto la dinamica repressiva, quanto il DASPO, l'attacco agli ultras, sia stato funzionale a allo sviluppo di quello che chiamiamo calcio moderno, no? Cioè il calcio della pay TV, funzionale al dominio della visibilità mediatica del calcio e quindi all'espulsione di determinati soggetti da quel panorama, da quello scenario. Questa è una prima roba che ti vorrei chiedere. L'altra ha a che fare con quello che si diceva prima, cioè sulla cooptazione anche del consenso dal basso. Ci si riferiva prima ai parcheggiatori abusivi, un po' casualmente è venuta fuori questa roba, ed è vero, cioè, no? Cioè, si parla molto spesso anche alla pancia, individuando dei soggetti nemici assoluti contro cui scaricare anche l'odio e il rancore che animano questa società, purtroppo. E io penso che gli ultras siano stati in qualche modo anche molte volte questo capro espiatorio, questo soggetto contro cui veicolare odio civilista, cittadinista, democratico, individuandoli come soggetti pericolosi a prescindere, no? Naturalmente pericolosi. Faccio riferimento in primo luogo ai fatti più recenti di Piazza San Carlo, mi sembra, di Torino, no? Quando la grande paura generalizzata prodotta dalla retorica mainstream in Italia abbia prodotto poi, no? quel delirio che ha portato a centinaia di feriti e a un morto nella piazza di Torino di fronte alla partita della Juve in Champions League. E la prima notizia il giorno dopo è stata colpa degli ultras, quella dinamica lì ha un unico colpevole, che sono gli ultra, che sono gli indecorosi. Prima gli ultra e poi anche un'altra volta colpire gli ultimi, dopo gli ultra sono stati i venditori abusivi di birre dentro la piazza, no? Quindi volevo chiedere un pochettino a Andrea, in primo luogo appunto, quanto il DASPO e il calcio moderno siano andati un di pochettino pari di pari passo. E poi vorrei anche che si rispondesse alla domanda fatta, spazio alle domande, quindi... Che voglia? No, cioè, alzo. Vai, forte, forte. Sul fatto di dire che quando magari la questione della repressione sugli stadi abbia poi, sia stata trasferita, no? C'è da dire che a livello comunicativo, a livello di pubblicità, tra virgolette, la figura del tifoso, la figura dell'ultras comunque continua a esercitare il suo fascino. Il caso di Trieste, curve vuote, stadi vuoti per una serie di contipesi, caro biglietti e via dicendo, curve coperte da teloni con rappresentanti sopra tifosi, cioè tifosi finti messi sulle curve, rappresentanti sui teloni, perché quando gli spot delle società, delle partite, di tutto si inquadrano i tifosi, il calcio di per sé in secondo piano. Quello è giusto un esempio che si ritrova anche molto sulla questione di dire l'ambiente che da un lato si vuole escludere, dall'altro continua a esercitare un fascino e continua a vendere, tra virgolette, quindi anche l'underground finto viene promosso e viene valorizzato. Mm. Viene venduto, dai. Altri interventi, raccogliamo. Io vengo qua. Giusto una cosa che mi è venuta in mente prima ascoltando, soprattutto il passaggio che avevo già letto ma che mi ha illuminato solo oggi sugli sconti fiscali per l'installazione di strumenti di videosorveglianza. Unendo questo al discorso che ha affrontato soprattutto Giso sull'attivazione del basso, mi rendo conto che gli strumenti, le retoriche sono le stesse che si usa nella città neoliberale per qualsiasi cosa, per cui lo sconto fiscale è il tipico, ormai è la forma in cui si distribuisce ricchezza in un modo surrettizio, in un modo totalmente assurdo dal punto di vista della redistribuzione, però è quello lo strumento e lo si applica anche nella sicurezza. Allo stesso modo gli strumenti partecipativi per associazione, una sala piacevolmente piena come oggi, c'è stata qualche mese fa quando abbiamo parlato dei finti strumenti partecipativi per la decisione della tangenziale di Bologna, e lì è più facile anche da raccontare, da spiegare come quella partecipazione sia all'interno di un framing ridicolo per cui ti dico noi la facciamo, tu decidi essenzialmente che giro fa la pista ciclabile che in cambio ti regaliamo, però in fondo l'attivazione partecipativa ha degli elementi che si ripropongono costantemente in questo governo della città neoliberale, per cui insomma mi sembra particolarmente interessante l'approccio di vedere questi strumenti repressivi nell'ambito di questa città e anche nelle similitudini con gli altri strumenti di attivazione o di partecipazione anche economica, appunto grazie alla telesorveglianza eccetera, a questa costruzione di del loro immaginario. Vai, hai voglia? No, va bene anche così. Moda. Secondo me per studiare questi dispositivi che sono due facce della stessa medaglia, repressione e produzione da una parte, secondo me paradigmatico può essere studiare i casi di nuovi stadi, dove appunto secondo me si potrebbe anche ipotizzare l'idea di una gentrificazione degli stadi. Quindi da una parte un investimento cospicuo di privati e pubblici, amministrazioni pubbliche, per la costruzione di nuovi stadi, dall'altra politiche di esclusione. In questo senso probabilmente lo Juventus Stadium, che è anche il primo caso di stadio privato in Italia, qualcuno mi corregga se sbaglio, paradigmatico il fatto di come venga anche messa a valore la pratica degli ultras. Da una parte c'è l'esempio della coreografia che era stata messa in pratica nei distinti, che però era stata creata dalla team, una coreografia creata dalla team, cioè che aveva lasciato dei cartoncini colorati che quelle persone che andavano a sedere nei distinti, adesso non ricordo con precisione che partita, poi mettevano in pratica al fisco inizio. Dall'altra parte non dimentichiamoci che queste politiche repressive vengono attuate dalla dirigenza della Juventus anche grazie all'aiuto, anzi anche grazie al fatto che si siano rivolti all'Andrangheta. Cioè non dimentichiamoci che il presidente della Juventus, Agnelli, è stato deferito, cioè non è innocente rispetto a questa cosa. Cioè lui si è rivolto dal basso, tra virgolette, a personaggi che potevano garantire in qualche modo che l'investimento fatto da una parte e la messa a valore di determinati elementi del fare ultras, della prassi ultras, della prassi tifosa, potessero essere in qualche modo controllate e messe a produzione. Io scusate, uso il microfono giusto per rispetto perché stanno registrando, perché neanche a me in realtà piazza il microfono in sé. Vorrei dare poi fare una chiosa di modo da dare modo ad Andrea di parlare. Tra l'altro ti faccio i complimenti perché ho letto il tuo libro e l'ho anche citato nella mia tesi, che si chiama Ultras, se li conosci non li eviti, ed è un adagio utilizzato proprio dal movimento Ultras, ed era anche questo mio intervento una provocazione, una tirata d'orecchie, nel senso che qualcuno ha poc'anzi citato l'esempio degli ultra della Juve. Ci sono nel fenomeno ultras, c'è sicuramente una buona parte di devianze, di criminalità, di soggetti poco di buono, di fascismo, di sessismo, di razzismo. Ci sono tanti altri esempi, sono gli ultimi forse, quei pochi rimasti che ancora portano avanti quella bandiera, che invece negli anni hanno davvero provato a lottare contro quello che in piccolo, e parlo del sistema calcio, il cosiddetto calcio moderno, è niente po' di meno che quello che stiamo vivendo, che viviamo da anni nella società di oggi, cioè la speculazione più sfrenata, il business più sfrenato, interessi davvero che si possono valutare in milioni di euro, interessi davvero di poche persone, che vanno a ledere quelle che sono in realtà delle passioni, non condivise sicuramente da tutti, però delle passioni popolari, quale potrebbe essere il calcio o lo sport più in generale, e che hanno di fatto svuotato gli stadi, hanno reso il campionato uno spezzatino per il beneplacito delle pay TV, i cui interessi sono milionari, e hanno di fatto sradicato una cultura popolare. Concludo il mio intervento dicendo che la repressione quindi è stata finalizzata a questo. Mi spiego meglio, le curve degli stadi sono state una palestra per quanto riguarda i reparti celere di tutte le città. Purtroppo ricordiamoci che qui a Bologna c'è il 7° reparto celere, che è uno dei più, insieme ai padovani direi, uno dei più dannosi e criminosi d'Italia, ce l'abbiamo qua in casa nostra. Quindi è stata una palestra di muscoli, una palestra di tattiche di guerriglia, di non indifferenti, che poi dopo sono state trasposte a Genova col G8 nel 2001, ma oggi vengono quotidianamente, magari non con la stessa veemenza, però portate, perché le teste rotte ci sono state anche venerdì scorso per due bomboni, come si dice in gergo, e però vanno spesso a colpire gli ultras della Juve, non sono stati colpiti, chi fa affari, chi propaganda odio, razzismo, qualunquismo, in dei bacini potenzialmente anche elettorali o comunque popolari, quali erano gli stadi, prima pieni, quindi facenti parte di una cultura, non venivano di fatto repressi, anzi spesso volentieri erano i cosiddetti amici della società e delle questure. Un'altra parte del tifo organizzato, anche qui a Bologna, sia nel basket che nel calcio ce ne sono ancora, sono quelle persone che magari hanno anche rifiutato poi la violenza o certi eccessi del movimento per delle battaglie più giuste, seppur inerenti al calcio. Gli ultras però hanno sempre detto oggi negli stadi, domani, oggi per gli ultra, domani in tutta la città. E quelli che magari hanno fatto meno violenza, hanno preso più coscienza anche dei loro errori, hanno provato a propagandare degli ideali più giusti, anche i ragazzini che si approfittavano alle curve, sono stati più repressi, e sono però quelli che negli anni, e parlo già dal 2000, dal movimento Ultras, hanno provato ad aprirsi alla società civile, anche a noi, cosiddetti compagni o militanti, e spesso e volentieri noi siamo stati vittime, come spesso denunciamo in mass media o altro, siamo stati vittime di disinformazione. Spesso e volentieri abbiamo tacciato gli Ultras come degli ignoranti, dei fascisti, dei razzisti, senza conoscere che magari c'erano altre persone che propagandavano ideali anche impolitici per certi versi, non per forza di cose con la bandiera rossa o rossa e nera, ma comunque sani per una società più giusta, che come vedete non c'è, è tutta là da venire. Però siamo qua. Io provo a dare un giro di risposte, poi riapriamo le domande. Se no lascio l'ultima domanda, poi faccio dare un giro di risposte. Se non ce ne sono altre, lascio dare l'ultima e poi faccio fare le risposte. Poi direi che se invece ce ne sono altre una o due, faccio prima rispondere. Però ci sei solo tu, quindi brevemente ti chiedo di fare la domanda, così lasciamo risposta anche allo sport. Sei anche venuto, sei grandissimo. Ciao a tutti, io sono Willy. Niente, io scusate, vorrei solo riportare un attimo il focus sulla questione sicurezza, prima è stata detta una cosa molto interessante su cui non avevo mai riflettuto, cioè una delle considerazioni finali che veniva fatta riguardava, diciamo, la volontà da parte di chi agisce concretamente e da parte delle istituzioni ovviamente di voler sciogliere determinati modi che potrebbero intervenire in situazioni prettamente riservate allo Stato, cioè la lampadina che mi si è accesa è stata, ah, ma quindi hanno questa sorta di mania, vogliamo metterla così, nel voler fare tutto da sé, cioè questa roba qui me ne devo occupare io, specie in termini di sicurezza. Allora poi pensandoci ho fatto un attimo un parallelismo, quindi non deve intervenire nessun altro, ho fatto un parallelismo e mi è venuto da pensare a due cose. Mi è venuto da pensare alla storia di Bologna, della zona universitaria di Bologna, dei primi racconti che venivano fatti delle prime forme di spaccio di sostanze pesanti in zona universitaria. E ci sono questi ex studenti, ex lavoratori che parlavano della loro esperienza in zona universitaria e che, scusate le spalle, che parlavano di questa sorta di servizio d'ordine che veniva fatto da bene o male tutti, da parte degli studenti e da parte dei lavoratori, che era mirato a garantire un certo benessere sociale statale. Ovviamente oggi non troviamo la stessa cosa. Mi è venuto da pensare al mio primo anno a Bologna, esattamente 4 anni fa, mi ritrovavo questa piazza Verdi la sera completamente piena di persone che tutto all'improvviso si alzavano e scappavano via tutti quanti perché venivano lanciate bottiglie, bidibobidibu. Quindi quello che mi sembra di capire oggi è che sta mancando proprio quella sorta di sicurezza sociale autoimposta, autocondivisa, rispettata, che veniva garantita da tutti. Cioè, se stasera io mi ritrovo in una situazione di un certo tipo, non mi faccio nessunissimo problema a alzarmi, andare da X di turno e dire: compà, questo non ci sta. Questa cosa viene un po' a mancare, quindi provandosi in certe situazioni, ecco, non tutte. Quindi questo parallelismo vuole andare in una certa direzione. Abbiamo proprio bisogno dell'istituzione come garanzia di sicurezza? È squallido che molte persone pensino di sì, perché effettivamente manca un garante sulla sicurezza, che mi sembra di capire, chiedo conferma, magari è più, perdonatemi il termine, anziani, mi sembra di capire che una volta era quasi una roba scontata, oggi no, mi sembra di vedere e capire. Quindi come famo? Come facciamo? Grazie. Lascio spazio alle risposte. Partirei da Andrea, che ha un po' di roba a cui rispondere, e dopo darei parola a Giso sulla questione controllo dal basso o sicurezza sociale. Allora, per quanto riguarda, insomma, dare risposte univoche sul fenomeno ultras è abbastanza difficile, perché comunque è un fenomeno abbastanza diversificato, perciò è quasi impossibile dare delle risposte per tutto il fenomeno. Io nel mio libro ho usato una metafora, che era quella di un animale mitologico, di quelli a più teste, perciò un animale che se gli viene recisa una testa, comunque non muore, però ogni qualvolta deve organizzarsi, trova delle difficoltà abbastanza grosse, insomma, ad organizzarsi, perciò immaginiamolo come qualcosa di abbastanza variegato, diversificato, perciò dare delle risposte univoche per il fenomeno ultras è abbastanza difficile. Tuttavia, davanti alla repressione che ha subito negli ultimi anni, che è stata abbastanza forte, ne abbiamo parlato prima, insomma, da Minniti, ma anche precedentemente, insomma, perché il fenomeno ultras, come dicevamo, è stato comunque un laboratorio di repressione in cui lo Stato ha trovato appunto le formule per reprimere il fenomeno e poi allargarsi poi alla società civile. Tuttavia, insomma, il fenomeno, in qualche modo la repressione ha risposto, benché in modo diversificato. La risposta è stata quella lì di, insomma, intanto debordare sempre di più dalle curve alle piazze, dalle curve alle strade. Perciò noi ci siamo ritrovati, infatti, negli ultimi anni, quando insomma riuscivamo ancora a fare manifestazioni di piazza, se vogliamo, gli ultras all'interno delle manifestazioni, e questo era indicativo del fatto che gli ultras erano stanchi o comunque di vivere soltanto quell'ambito sociale che erano le curve, ma volevano debordare. Inoltre, insomma, la diversificazione non permette risposte univoche, appunto perché, insomma, è difficile perché il fenomeno è diversificato al suo interno a livello politico, ideologico, valoriale, insomma, è molto diversificato, perciò non c'è una risposta univoca a tutto ciò. Per quanto riguarda la repressione, tornando alla sua domanda, sicuramente è stata funzionale al calcio moderno, perché comunque ha avuto una sorta di gentrificazione, espellendo dallo spazio stadio tutte quelle soggettività che davano fastidio appunto alle società di calcio, alla federazione o al calcio moderno più in generale, e ha cercato di assoggettare il fenomeno a un fenomeno appunto strumentale al calcio moderno, cioè che facesse appunto, come si diceva prima, coreografie, cantasse, perché comunque si includeva all'interno del grande spettacolo che era il calcio moderno. Perciò, in linea di massima, insomma, questa è la risposta che mi viene da dare a Matteo per quanto riguarda, sì, ha avuto la sua influenza sicuramente la repressione all'interno dell'ambito del calcio moderno. Poi cosa mi veniva chiesto non ricordo, insomma. Stadi, maxi stadi. Sui maxi stadi, no, stadi privati, come sottolineare. Sì, anche questa, la questione degli stadi privati è abbastanza centrale all'interno del calcio moderno oggi e rientra sempre in quella logica di gentrificazione, perché comunque gli stadi privati determinano il caro prezzo del biglietto, cioè uno stadio per andarsi a vedere allo Juventus Stadium una partita della Juventus costa non meno di 100 carte, perciò vediamo quanto, insomma, sia inclusivo o meno uno stadio privato. Perciò anche quello è funzionale affinché vengano espulse tutte quelle parti sociali che danno fastidio al grande spettacolo del calcio moderno. Però in ogni caso il fenomeno ultras, con tutte le sue contraddizioni, con i paradossi che ha al suo interno, ha trovato forme di resistenza a tutto ciò. Io c'ho il nonno. No, innanzitutto nel decreto Minniti, poi legge Minniti, il nonno è un'altra delle figure consacrate, lo dicevi tu prima, perché il famoso fenomeno delle ronde è accolto dentro questa legge ed è molto incoraggiata la partecipazione in quel senso lì. Io non saprei cosa fare del nonno, so che cosa però non dobbiamo fare, che era un po' quello che si diceva all'ultimo, cioè rispondere da bravi e eleganti sostenitori dello Stato di diritto che la sicurezza non si fa dal basso, le ronde non ci piacciono perché deve venire l'istituzione con la sirena a fare la sicurezza impersonata dallo Stato. Questa cosa bella, liberale, che a noi non piacciono le ronde, ma vogliamo la polizia, quella ufficiale, non funziona, ma non funziona non semplicemente perché non ci piace la polizia, quella ufficiale, ma perché la complessità dei dispositivi di sicurezza oggi non ci permettono semplicemente di dire ah, che schifo la partecipazione dal basso alle manovre securitarie. Ci dobbiamo entrare dentro e dobbiamo rispondere in qualche modo sullo stesso piano, dobbiamo essere complanari a quella cosa lì. Quindi col nonno cavoli della famiglia, però l'esempio che facevo alla fine delle passeggiate indecorose significa, ma se tu vuoi riprenderti la sicurezza del quartiere e non puoi semplicemente polemizzare con la ronda e con la sicurezza fai da te, lo devi occupare il quartiere. Devi fare l'organizzazione politica degli indecorosi e delle indecorose e di tutte quelle soggettività strane, marginali, diversificate che incontriamo sui problemi della sicurezza. Tu dicevi giustamente c'è un limite al movimento ultra perché spesso non ha avuto coscienza di sé. Ma vale anche il reciproco, c'è anche un limite della mentalità militante che pensa che le lotte nelle metropoli si facciano sempre con figure, con la coscienza di sé, la coscienza politica. Connettere dentro i quartieri cose da cui può nascere una riappropriazione antisecuritaria della sicurezza, significa connettere figure molto differenziate che non possono essere misurate sul metro della trasparenza e della consapevolezza politica, perché ti trovi le figure marginalizzate, cosiddette classi pericolose, eccetera, eccetera, ti trovi le figure del volontariato che sono sospese tra la cooptazione e fenomeni di ripoliticizzazione che pure ci sono in giro, perché Minniti un'altra cosa che ha fatto è intervenuto pesantemente sul mondo del volontariato che lavora in strada, imponendo o cercando di imporre figure di una pubblicizzazione del loro ruolo, e questo ha creato contraddizione. E sulla strada e nei quartieri incontri questo tipo di figure. Una militanza politica oggi antisecuritaria dovrebbe essere capace di connettere queste figure variegate, che vanno dal volontario che non vuole più solo buttare il letto per terra e preparare la minestra calda, però poi con l'alleanza con la polizia, ma che si sta prendendo un'altra consapevolezza, un'altra battaglia interna del suo ruolo, alle figure cosiddette marginali, alla costruzione di mutualismo più politico, più capace di riflettere sulle proprie capacità di resistenza, lavorare su figure che non sono quelle della militanza, ecco. Quindi se gli ultra non hanno raggiunto coscienza politica, siamo pure noi però che abbiamo un'idea di cos'è la brava soggettività con coscienza politica, che la dovremmo molto trasformare. In genere la sicurezza, il securitarismo nasce quando abbiamo avuto la cattiva idea che lo Stato fosse il dispositivo principale per assicurarci la vita. Questa brutta idea nasce nel 600, no? Ci stiamo uccidendo l'un dall'altro, e allora creiamo un sovrano che tutti ci protegge, perché la prima cosa è la protezione. Ci mettemmo una cinquantina d'anni a vedere che poi il problema principale che si era creato era che quel dispositivo di sicurezza che avevamo creato era proprio quello da cui ci dovevamo difendere. Quindi riappropriarci della sicurezza come qualcosa che invece viene gestito dentro le nostre figure, dall'auto-organizzazione, come si diceva all'ultimo, è quello che dobbiamo fare, sapendo che non abbiamo a che fare con la soggettività politica che noi abbiamo in testa. Dico anche una cosa, solo una cosa riguardo, nel senso che appunto anch'io sono un po' dell'idea che forse sia meno opportuno procedere in termini di opposizione frontale e più consigliabile un po' cercare di vedere quali interstizi e crepe si creano e come infilarci, sino banalmente anche rispetto al fatto che quella che si diceva a proposito della governamentalità neoliberale sembra essere riuscita in una cosa in cui in cui molto, molto poco spesso noi siamo riusciti, no? Mentre la questione della mobilità dei nonni, attraverso anche tutta una serie di sostanzialmente sto fiando sul fuoco dell'angoscia della solitudine e adoperando un po' la paura come macchina di governo, no? Anche poi nei confronti di quelli che erano state delle mobilitazioni politiche importanti, perché se penso che, appunto, ripercorrendo anche un po' le snodi degli ultimi anni, che se a Genova potevano essere le Molotov, poi con i notar diventavano gli attrezzi di lavoro, poi con i snowboarder di Ventimiglia diventavano gli spuntoni da Freddy Krueger del carnevale, e adesso con i barboni diventano fondamentalmente cartoni su cui scrivono, no? Ed è interessante che, appunto, questa profilizzazione della pericolosità sociale, appunto, non a caso anche una delle prime ordinanze relative che è stata fatta dal sindaco di Seregno andava proprio a colpire quei soggetti che l'ordinanza recitava determinano lo scadimento della qualità urbana con sentimenti di forte apprensione e inquietudine causata dalla percezione di pericolo. da parte, diciamo, nei confronti del cittadino decoroso, ecco. E anche secondo me, cioè, si profila un grande scontro anche su quella che è l'idea portante di vivibilità di un quartiere, di una città, no? Che è proprio il concetto a cui fa riferimento l'dispositivo un po' varato da Minniti, dopo tutta una serie di movimenti, che è proprio la vivibilità, fa riferimento, correlato a una questione di sicurezza pubblica, cioè anche lì, come veniva fatto riferimento alle passeggiate antisicuritarie, alle clean streets, femministi, e altre iniziative simili, sì, cioè sì. Penso che anche io sia questo più o meno il piano su cui bisogna cercare di muoversi per fare in modo anche che la mobilitazione dei nonni in qualche modo riesca ad assumere altre direzioni, no? Forse questo lo stiamo facendo poco, ma banalmente penso anche a altre formazioni politiche con altri orientamenti, che invece questa cosa sta riuscendo a farla estremamente bene, no? Se pensiamo già alle iniziative, diciamo, di Alba Dorata di tenere compagnia agli anziani, e anche adesso, diciamo, da questo punto di vista, cioè della cooptazione di una certa mobilitazione sociale che si è creata, insomma, c'è da cercare di farci i conti e di darsi da fare. Allora, cerco di essere brevissimo. La prima cosa che volevo dire è che in realtà è incredibile, appena si apre la questione da Sporbano, ordinate, si aprono una serie di discorsi che potenzialmente sono infiniti, e tendenzialmente nell'organizzare queste tre giornate abbiamo provato a individuarne diverse sfaccettature, giusto per dire poi come si evolverà questa tre giorni. Domani parleremo di molti temi affrontati adesso, quindi una prima parte sulle ordinanze, una seconda parte su come queste ordinanze in realtà producono un tipo di città, quindi siamo pienamente nel modello della città neoliberale, e il terzo giorno, parlando di migrazioni, parleremo anche di quella che possiamo chiamare una decorosa circolazione, perché è vero che molti di questi diasporbani vanno a toccare, o comunque molte forme repressive vanno a toccare la mobilità e impongono un tipo di mobilità. Poi non è che non possono esistere altri tipi di mobilità, ma è chiaro che se il tuo passaporto è sbagliato, se vuoi spostarti da una nazione all'altra, ci devi provare 3-4 volte, tendenzialmente prendere anche delle mazzate e diventare in questo modo il più possibile uno schiavo o una schiava perfetta. Quindi questi temi ritorneranno nel giro di questi giorni. Volevo fare proprio due domande, mi rendo conto, molto spot. La prima, se noi ci focalizziamo sugli stadi, beh, in questo momento una delle cose più inquietanti che sta avvenendo è il divieto della foto di Aldrovandi, per esempio, e questo, se noi pensiamo veramente agli stadi come laboratori, è abbastanza inquietante se pensiamo al futuro. La seconda domanda, poi in generale, se c'è un modello di sicurezza integrata che quindi incalza, diciamo, il basso della società, mi chiedo anche se ci sono, se possono essere incalzate in maniera ovviamente contraria, una serie di figure grigie che dovrebbero in teoria essere funzionali all'applicazione. Non sto dicendo convinciamo gli sbirri a essere buoni, assolutamente no, però per esempio il decreto Minniti aveva come previsione il dare ruolo dello sbirro agli operatori. Casualmente è saltato questo punto, secondo me perché si era capito che sarebbe stato un bel casino. Mi chiedo se ci sono altre figure che possono essere incalzate in questi termini. Risposta rapida, stadi, Aldrovandi, rispondi tu. Che dire, insomma, la repressione è abbastanza ampia, che appunto anche in questo caso non ci permetteva di far entrare la bandiera, il volto di Aldrovandi. Tuttavia, insomma, all'interno degli stadi non si può introdurre nulla che non sia un metro quadro, cioè tutto il resto può essere introdotto con l'autorizzazione del questore, perciò insomma non si è liberi di introdurre negli stadi bandiere, striscioni, liberamente, insomma. Lo si poteva fare tanti anni fa, oggi non più. Oggi una bandiera che supera un metro quadro deve avere l'autorizzazione del questore, della questura, perciò insomma in questo senso anche è stata una delle strategie della repressione insomma degli ultimi anni verso il mondo ultras. Quello che volevo dire è che di fondamentale importanza è che qualche anno fa hanno tentato di far passare sul mondo ultras l'articolo 9. L'articolo 9 in che cosa consiste? Consiste praticamente che nei soggetti potenzialmente pericolosi che in passato avevano subito un DASPO o denunce o reato o insomma qualcosa del genere, gli veniva proibito a vita di andare all'interno di uno stadio. Poi è saltata perché c'era un'opinione pubblica contraria, perché era anticostituzionale, poi ci sono state anche forze politiche che si sono opposte, perciò è saltata e questo sarebbe stato un dramma se fosse passata, perché comunque anche in questo caso l'avrebbero poi fatta debordare dagli stadi alle piazze, perciò comunque era qualcosa che poteva poi toccare tutti praticamente questo articolo 9 e per fortuna è saltato. Quali sono gli altri oltre loro, gli operatori? Cerchiamoli, però l'esempio che io facevo era proprio quello degli operatori, perché mi pare che comunque in strada si stanno moltiplicando persone non cooptabili o comunque delle crisi del modello della cooptazione. Quello che è successo sui casi delle uccisioni di polizia, eccetera. C'è stata una mobilitazione su quei casi lì antipoliziesca che ha messo su figure, che ha mobilitato figure che non te lo saresti aspettato. Noi dobbiamo anche saper vedere queste cose. Sulle uccisioni di polizia c'è stata una mobilitazione, una disposizione di mobilitazione che ti sorprende, non combacia con l'idea che ci facciamo di una popolazione ormai abbacinata dal mito securitario. La vera questione è che quello che ti viene in manifestazione o che ti fa l'assemblea antitortura o contro l'abuso di polizia, spesso è la stessa persona che poi invoca misure securitarie nel quartiere. Stiamo proprio, quando parliamo di zone grigie, sono veramente spesso le stesse persone che vengono all'assemblea contro gli sbirri che sparano e che poi vogliono lo sgombero della casa occupata nel loro quartiere. E come le risolvi queste cose? Creando dispositivi mitici, assembleari, contro dispositivi. Che riescano un po' a far sì che queste figure grigie si schierino in qualche modo, però ce ne sono davvero molte, è abbastanza impressionante il consenso che certe volte ha avuto la mobilitazione contro questo o quel caso di abuso di polizia o di violenza della polizia. Io penso a Napoli, a quello che è successo al quartiere Traiano, non solo la vicenda, le varie vicende, non solo quella di Ciro, ma lì si è costruito mobilitazione su quegli eventi, e qualche volta era anche molto difficile, perché sai, quando l'uccisione di polizia capita al ragazzo del quartiere malfamato e ti vengono fuori i comitati civici, erano in tre sul motorino, è stata dura, ma la disponibilità alla mobilitazione di quei quartieri che si sono visti indicati come gente da uccidere, no? Come gente di cui era possibile l'uccisione, c'è stata. È stato un processo di alfabetizzazione molto grande. Se a Napoli il quadro politico è un po' diverso dal resto, è anche perché ci sono state quelle mobilitazioni periferiche, a cominciare da casi che non erano non erano all'inizio politicizzabili e non sono stati politicizzati nella idea tradizionale di politicizzazione, ma sono stati interi quartieri che davanti a inseguimenti di polizia, uccisioni di polizia, hanno dimostrato una capacità di mobilitazione, di reazione popolare incredibile. Sono figure grigie, proprio molto grigie certe volte, eh? Però bisogna intervenire con una certa postura. Ci sono altri interventi, dubbi, domande? Chiedo. Ma altrimenti un pochettino su... Vai, Andre. Sì, però vieni pure. Abbiamo perso. Perso, eccolo, tornato. Sono usciti davvero un sacco di spunti stasera. Questa cosa mi fa particolarmente piacere perché credo che finalmente ci sia una presa di consapevolezza, forse un po' tardiva dal mio punto di vista, da parte come vogliamo chiamarci, compagni, militanti, insomma, di un attacco repressivo a cui non si può più rispondere unicamente guardando soltanto alla propria realtà, che sia questa quella ultras, che sia quella appunto di chi fa militanza o chi fa controcultura nei quartieri, eccetera. E quindi innanzitutto il primo ringraziamento va ai compagni e alle compagne che si sono sbattuti per l'organizzazione di questo evento, che secondo me è di un'importanza considerevole, appunto perché forse è uno dei pochi tentativi, dei primi, ma dei più importanti, dei più interessanti riguardo un'apertura, perlomeno dal punto di vista delle analisi, di quanto sta succedendo, che sia il più possibile inclusiva, proprio perché, ripeto, costruito in un'ottica in cui rispondere all'attacco repressivo non può essere la risposta all'attacco repressivo non può essere costruita soltanto nei nostri spazi, ma andando a guardare anche le altre realtà. Dopo i complimenti, però, c'è sempre la tirata d'orecchi, che in questo caso secondo me sempre va fatta a tutto il movimento, comunque quelli di cui prima parlavamo, chiamiamoci compagni, militanti o che sia, che per anni siamo stati incapaci di riuscire ad avere questa apertura, sempre dal punto di vista dell'analisi che l'apparato repressivo aveva e ha rivolto verso di noi, ma non solo. Per anni purtroppo siamo stati incapaci di, ad esempio, di ascoltare tutti quei messaggi che dal mondo ultras, per citarne uno, ci arrivavano. Per anni gli ultra delle curve hanno organizzato cortei, manifestazioni, campagne contro la tessera del tifoso, contro l'articolo 9, contro la repressione, hanno organizzato raccolte fondi, iniziative di sostegno per chi di loro veniva brutalmente attaccato dalla polizia, cosa che è successa a Paolo Scaroni a Brescia o in altre parti d'Italia, a Luca Fanesi, ultras della San Benedettese, eccetera. Probabilmente siamo stati noi incapaci di percepire, di cogliere, insomma, quei messaggi e quindi di allargare la nostra risposta a questo tentativo, insomma, ai tentativi quotidiani di repressione che subiamo anche andando a guardare altre realtà. Non ci dimentichiamo, ad esempio, sempre poi per tornare sul discorso della messa a valore di queste soggettività che prima vengono combattute, vengono ostacolate e verso cui viene mosso l'apparato repressivo. Una di queste, ad esempio, che nella discussione forse è emerso poco, è la figura dei graffitari, di chi fa writing, eccetera. messa a profitto della, del graffito significa proprio quello, l'arte, la street art va bene quando la fa l'associazione che ha chiesto il permesso al comune di ridipingere la serranda proprio perché così non ci fanno più sopra le scritte, o addirittura viene presa e messa nei musei dove pagare un biglietto per vederla, poi però se ti beccano che dipingi la metro ti sbattono dentro. Ci sono episodi in cui le stesse persone che vengono sbattute dentro poi magari sono quelle che invece vengono contattate nei musei per i capolavori che realizzano, e quindi un'altra cosa a conferma quanto si diceva prima, o del tentativo di gentrificazione, secondo me, cioè, per quanto ci faccia schifo questo termine, purtroppo forse è il caso di usarlo, degli stadi italiani, della questione tifo, che prima sbatte l'ultras in prima pagina come assassino, come un problema per la società da emarginare subito, poi però quando la curva è vuota ci sono le promozioni nelle scuole, non entrano i tifosi ma riportiamo le famiglie nelle curve, eccetera. Tutti questi tentativi secondo me vanno ricondotti principalmente a una dinamica che è fondamentale, che è quella che può essere definita come sbatti il mostro in prima pagina, cioè innanzitutto viene costruita una campagna contro la persona, la soggettività, l'individuo che ho voglia di andare a combattere. Allora, di nuovo, chi accende una torcia, e regà, diciamocelo chiaramente, è capitato a tutti di accendere una torcia, non va più allo stadio per un anno. Chi entra in curva con una bandiera della Palestina o con la pezza di Aldrovandi, per citarne un'altra, e la vicenda di Federico la conosciamo tutti, rischia 3 anni di DASPO, di allontanamento da tutte le manifestazioni sportive, come se il problema non fosse quello che succede in Palestina, la morte di Federico, piuttosto che qualsiasi altro problema venga sollevato, bensì chi ce lo ricorda. La stessa cosa succede con i poveri. Allora il problema non è chi affama la gente, ma è quello che fa l'elemosina fuori dal supermercato, che c'è il cartone con scritto aiutatemi ho fame. E quindi innanzitutto c'è il dipinto di queste figure del tutto alterato. Allora gli ultras, che sono costretti a dire se li conosci non li eviti, perché noi siamo persone che organizzano attività solidali, che fanno socialità, aggregazione, eccetera, così come il valore delle opere d'arte realizzate dai graffitari, a me chiamarli street artist non mi piace, l'importante è il dipinto che viene fatto di quella figura lì. Nel momento in cui te l'hai criminalizzato, hai detto all'opinione pubblica, alla società civile, chiamano come cazzo ci pare, il problema non è chi affama, il problema non è chi porta la pezza di Federico Aldrovandi, e quindi perché quello c'ha fame e perché succedono gli episodi che sono successi a Ferrara, il problema sono quelle soggettività, e quindi contro di quelle costruire una campagna che appunto ha come fondamento la garanzia che te stai operando nella direzione giusta. E credo che l'unico modo per appunto non parlare di una risposta a questo apparato securitario, come si diceva prima, di tipo antisecuritario, sia tornare a ridiscutere anche di questi fondamenti qua, e quindi tornare a ricordare perché il barbone con il cartone fuori al centro commerciale fa l'elemosina, il perché c'è la necessità di ricordare quello che è successo a Ferrara, il perché c'è anche la necessità ogni tanto di accendere 2 torce e disegnare sul muro della metro di Roma, ecco. Potrebbe essere una delle armi che dobbiamo utilizzare, semplicemente, come si diceva prima, per non dire no alle telecamere, no a i video col cellulare. Una risposta del genere non è più sufficiente se non torniamo anche a decostruire questo impianto che ci fanno insomma di una realtà, e che poi li tutela nelle loro operazioni securitarie, ecco. Tutto qua. Io provo a dire le ultime cose per andare verso la chiusura. Credo da un lato che intorno alla questione delle zone grigie, che prima veniva accennata, ci sia una una posta in palio, una scommessa importante che ci giochiamo, no? Credo che la crisi sociale, politica, culturale, economica in cui ci troviamo abbia prodotto un espandersi di queste zone grigie a macchia d'olio o come vogliamo, comunque si sono letteralmente espanse, no? E sono sempre meno identificabili chiaramente, perimetrabili dentro le nostre letture più o meno politiche che diamo a queste. Penso che queste zone grigie a cui si alludeva prima come risposta dei quartieri agli abusi di polizia siano un pochettino in modi diversi, no? Anche per questioni geografiche o di background culturale, le stesse zone grigie a cui alludiamo quando diciamo che di fronte a 10 DASP urbani si sono levate le critiche un po' di tante e di tante, no? Fino all'associazionismo cattolico, mentre per dire quando a giugno noi e altre 20 persone venivamo allontanati con dei fogli di via di 3 anni durante il G7 per l'ambiente, ci siano stati usciti un paio di comunicati sui giornali di movimento e praticamente manco mia madre sapeva che mi stavano mandando via da Bologna. E questa è una differenza tangibile, no? tra la nostra zona rossa, nera, chiamiamola come vogliamo, ristretta e molto compatta, e una zona grigia indifferente a molti processi, ma che tante volte emerge come critica di fronte alle robe più lampanti, alle punte degli iceberg della repressione, no? E credo che questa zona grigia sia consistente e sempre più fondamentale da inchiestare, da andare a contattare. E perché da un lato è quella che si mostra critica sul DASPO, per esempio, ai poveri, ma poi può invocare di fronte a fatti come quelli di Piacenza, dove alcuni poliziotti sono trovati costretti a correre via, le manette, la tortura per i compagni e le compagne che hanno resistito a quelle cariche, no? È quella zona un po' grigia lì. E io credo che le destre in questo abbiano avuto una lettura intelligente nel forzare la radicalità delle posizioni, no? Per spingere questa zona grigia dalla loro parte, no? Cioè la forza che si è costruita intorno a Casa Pound, Forza Nuova in questi anni, è stata anche la capacità di raccogliere dentro quelle zone grigie delle nicchie di consenso. E io credo che la sinistra, soprattutto quella para-istituzionale, abbia sbagliato molto in questo, nel difendere posizioni moderate come soluzione a questa zona grigia, come nel dire teniamo la pace sociale, teniamo calmi i toni, no? Come dopo i fatti di Macerata, no? Le prime parole che sono uscite dal PD erano teniamo i toni bassi. Non... Pure peggio essere mimetico, cioè dire ah vedi allora l'unico modo per fermare questi fenomeni di estrizzazione delle periferie è prendere dei pezzi di quel razzismo diffuso e metterli in bella copia ed inserirli nei nostri dispositivi. Loro hanno fatto questo. Microfono. No, sì. Dicevo che non solo la sinistra istituzionale è stata moderata, ma qualche volta ha pensato proprio di essere mimetico davanti a destre di cui si celebrava, devo dire qualche volta pure in toni un po' esagerati, perché poi se vai a fare analisi sociologica nelle periferie tutta sta razzistizzazione non è che la trovi, e però molta sinistra istituzionale ha detto vabbè, allora un po' di razzismo omeopatico impedirà alle destre di vincere nelle periferie. Invece noi andiamo a vedere che poi come che so, nel caso di Bifulco che mi veniva in mente prima, e tu invece in periferia ci arrivi e ci arrivi senza alzare per niente bandiere securitarie o pseudo razzistiche, no? Anche, devo dire, pure qualche compagna della sinistra radicale in un certo periodo ha cominciato a dire vabbè, ma allora non parliamo troppo di migranti perché poi nelle periferie non ci capiscono, eccetera, eccetera. Non accade questo. Quando riesci a trovare il dispositivo di robustizzazione, no, eviti la frana a destra delle periferie, è veramente un mito retorico questo. E niente, dicevo che di fronte a questa zona grigia vanno costruiti secondo noi degli strumenti di lettura per ricomporre, no? Cioè, questo è un po' il tentativo di questi 3 giorni, provare a costruire delle analisi che riconoscano il nemico reale, che riconoscano i processi di valorizzazione reali e che rompano un po' la logica della guerra tra poveri, no? Questo è fondamentale, credo che vada assunto come scommessa per tutti e per tutte. Rispetto alla discussione di oggi, lo diceva prima Paolo, sono emersi sorprendentemente molti dei temi, era quello che ci auguravamo in realtà. realtà, ma ci ha sorpreso comunque, che verranno affrontati nei prossimi giorni, che evidenzia il fatto che c'è un filo rosso che collega tutti questi tavoli, tutti questi incontri che abbiamo programmato da qui fino a domenica. Brevemente, domani, lo diceva Paul, ci sarà un primo incontro la mattina alle 11 al Costa Arena che parlerà di ordinanze, un argomento che è già uscito in diversi interventi oggi, no? Daito parlava delle ordinanze di Como, di questo Natale, dove sono stati appunto, è stata prevista la multa per accattonaggio e un'altra serie di dispositivi di allontanamento dei più o meno indecorosi. E tante sono state le ordinanze a Bologna, le conosciamo bene, diversificate per quartieri, per classe, per razza, no? C'è un'ordinanza un po' per chiunque che le limita al quartiere o la città dove vive. Sarà l'oggetto del primo incontro di domani alle 11 in Costa Arena. Seguirà un incontro che un pochettino analizza di più la parte della valorizzazione, della speculazione, della gentrificazione, della modificazione strutturale dei nostri quartieri, legata anche a processi di finanziarizzazione e di cambiamento sociale appunto delle piazze dei quartieri. Quindi invitiamo un po' tutti e tutte non a una nuova discussione domani, ma al proseguimento di questa discussione. Inoltre ricordo che ora è pronta la cena, che ci scalda un pochettino a tutti e tutte, una bella zuppa calda, un piatto di pasta che vogliamo condividere con chi rimarrà qua, perché dopo alle 9:15 comincia un secondo tavolo che è dedicato alle feste, ai free party, al modo di festeggiare, un po' perché ci piace festeggiare, un po' perché crediamo che sia necessario anche porsi degli interrogativi politici dentro quelle situazioni, così come dentro gli stadi, così come dentro le piazze, così come nei luoghi che viviamo, anche dentro le feste, anche dentro i contesti di socialità che viviamo, abbiamo bisogno di porci gli interrogativi e di capire quale locale ci sta gentrificando la socialità e quale locale invece riusciamo a fare nostro, oppure a occupare, oppure a cambiare, a trasformare socialmente insieme tutti e tutte. Vi ringrazio tantissimo per la partecipazione straordinaria oggi. Eravamo dietro, guarda qui,